Ed ecco, come promesso, ragazzi, silenzio assoluto. Silenzio assoluto. Voglio sentire il suo nome. Pulido Pulido, come promesso, M2O e Provenzano DJ, dal vivo Gigi D'Agostino. Eccolo. Coloro che non hanno capito cosa succede quest'oggi dentro ad Out of Mind edizione speciale, si suona dal vivo Stand Newmark e in questo momento c'è il cammino di Gigi, il cammino di Gigi. Dal vivo, dal vivo. Stand Newmark.

passare da una condizione di sonno molto strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, carrying me softly with his song. Ragazzi, la festa lunedì 13 marzo presentata da DJ Set alla Baia Imperiale con tutti gli artisti di M2O e DJ Set in sala Newmark. State sentendo dal vivo niente meno e Gigi D'Agostino. We'll be right back. qui in console, DJ Lassa. Ore 5, appuntamento solo su M2 musica allo stato puro. Musica allo stato puro, dal vivo e in console. Non è finita, non è finita, assolutamente no! Tra un po', dopo Provenzano e Gigi D'Agostino, DJ Lasa, ore 5, qui lo Stand and New Barca! Ciao Italia! Stay. ancora oggi, ore 17, DJ Lasa. Tutti gli artisti di M2O e anche le loro, da non perdere, dal vivo si tocca con mano, la stessa formula e non sono qui con noi. Dallo stomaco, ciao Italia! La console più ricca del SIB 2006, Newmark, solo Newmark. Suona Gigi D'Agostino dal vivo e a fianco Provenzano DJ, René La Vulgara, Simone Girasole, i Promised Land. Ah! Compagnia anche